Buongiorno, buongiorno. Posso entrare? Buongiorno. Come? Ma venga, benvenuto. Bello. Per il nostro concessionario. Bello, che concessionario è? Perché io ho visto le macchine, però non ho visto fuori che marca è, perché insomma. Beh, allora, prima di tutto non c'è bisogno di un nome, ma c'è solo bisogno di un simbolo. Ma prego, si accomodi, guardi, il nostro ultimo modello. Grazie, quella stavo guardando proprio quella io. È il nostro modello XDR, è un modello assolutamente nuovo. Guardi, abbiamo deciso di non scendere a compromessi con questo modello. Sì, guarda, cioè, mi fa venire i brividi solo guardarla, devo dire la verità, mi vengono proprio i brividi. Ho anche paura a toccarla poi, posso toccarla, no? Assolutamente, deve toccarla, deve sentire la texture del materiale. Sente questa il rivestimento della carrozzeria? È incredibile, incredibile. Questa è sabbia del deserto del Mojave, che è stata filtrata da 50 indiani sotto il sole cocente nell'arco degli ultimi 2 anni. Ok, quindi è ricristallizzata praticamente. Assolutamente. Incredibile. È Gesù cristallizzata proprio. Ok, veramente incredibile. E quindi praticamente questa è full optional, è l'ammiraglia insomma della vostra. Sì, ma aspetti. Senta le rifiniture dei tessuti dei sedili, le sente come sono fini? Sì, mi si muove qualcosa sotto, devo dire la verità. Allora adesso le spiego. Questi, il tessuto non è sintetico, è naturale, è stato prodotto da 40 milioni di bacchi da seta che sono stati nutriti soltanto con succo di papaya. Madonna, incredibile. Guardi i numeri del contachilometri. Questo font è stato disegnato da 7 monaci tibetani che sono rimasti in clausura per 4 anni, solo per disegnare il font del contachilometri, solo per i numeri. Proprio suona il clacson, proprio PG? Allora, questo mamma è mamma mia, cioè, quindi fa un rumore suono, del rumore praticamente. Esatto, questo è un suono campionato da una suonatrice di corno francese, polacca, vergine, di 22 anni. Francese o polacca, scusi? Il corno è francese, la suonatrice polacca. Ok, scusi. Che si nutre soltanto di semi di papaya. Incredibile. È qualcosa di assolutamente definitivo. Senta la rifinitura del volante, senta com'è morbido, com'è delicato. È eccitante, devo dire, eccitante assolutamente. Io la voglio questa macchina. Questa è placenta di una 24enne che è rimasta incinta a 23 anni, che è stata nutrita solo con papaya durante tutta la gestazione. Pure lei sempre la papaya, insomma, assolutamente. Guardi, per questo modello, il modello ovviamente essendo base è comunque assolutamente full optional, il prezzo richiesto è di 666.000 euro. No, ma io devo assolutamente rovinarmi, perché io sono stato convinto di avere bisogno di questo prodotto. E lo voglio anche perché secondo me li vale anche, cioè non so, sì, poi le mie generazioni successive, però vabbè, non fa niente insomma. Lei non sta comprando un'automobile, lei sta regalandosi un sogno. Un sogno, esatto, infatti. E lei, guardi, allora io mi dica insomma, è il prezzo finale, quindi è quello, no? È tutto a posto. Sì, assolutamente, poi ci faccia sapere se porta lei le ruote o se gliele dobbiamo mettere noi. In che senso, scusi? Le ruote non sono incluse nell'automobile. Naturalmente, cioè così lei può scegliere se portarsi le sue ruote o usare le nostre. Le nostre, guardi, sono un modello assolutamente eccezionale. Sente la vulcanizzazione, questa è proprio sabbia del vulcano dell'Etna, che è stata raccolta da 20 bambini etiopi. Certo. Non è riempita d'aria la ruota, ma è soffiata da un camionista norvegese. Sì. E infatti prima di aver mangiato della papaya, così c'è sempre dentro nella assolutamente dentro nella ruota c'è l'aria che sa di papaya. Senti, guardi, io penso che siccome che queste ruote, anche se non sono comprese, la cosa un po' mi suona un po' strano, devo dire la verità, però immagino che siano state progettate specificatamente per questo modello. È inutile che porto io una cosa che magari potrebbe non essere compatibile. Quindi quanto costa inserire anche le ruote nella macchina? Allora, col montaggio sono 19.999 a ruota. Ma allora, scusi, porco. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La credibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascheretta? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto gli studi, 70, e noi siamo arrivati a 72. Stavo di qua, mutanda da fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno, un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questo nuovo ennesimo episodio di Buongiorno un cazzo, qui Simone Pizzi su runtimeradio.it, insieme a me, come avete già potuto intuire, Alex, Alexei, Jay, Poo, Ili, Zi, Acuglia. Buongiorno, un cazzo a tutti. Ciao Alex, benvenuto a questa scena importante, è propedeutica, diciamo, alla nostra discussione di questa mattina, perché voi sapete che noi oramai facciamo pochissime trasmissioni insieme, ma quando le facciamo c'è sempre un motivo dietro che nasce, insomma, dall'esigenza, ecco, diciamo, di raccontare cose, i nostri dubbi, nostre perplessità. Però, come abitudine, insomma, delle nostre trasmissioni, noi apriamo sempre con un brano, giustamente. E essendo Alex ospite, giustamente tocca a lui. Presentare. Allora, la risposta è che non mi ero preparato sul titolo, per cui adesso lo sto andando a cercare. Ah, ok, se vuoi te lo dico io. Silver Breed. Ok, loro sono gli Amorphis, che sono uno dei gruppi che ha inventato il genere del death melodico nord europeo, e hanno fatto due dischi molto belli, che sono Elegy e... non mi ricordo più l'altro titolo, scusate, ma stamattina sono proprio rincoglionito. Poi si sono un po' persi per strada, ma questo è una delle ultime cose che hanno fatto, che infatti è del... fammi vedere di che anno è, appunto per la serie siamo molto preparati. Vabbè, ma in realtà non... è del 2009, per cui cioè, già comunque sono passati 13 anni, però secondo me è molto, molto carino, ricorda molto i fasti di un tempo. Ok, se vuoi farlo partire, va. Ci ascoltiamo questo brano che dura 4 minuti e 8. Noi, come nostra tradizione, ne ascolteremo tipo la metà e l'altra metà ci parliamo sopra, naturalmente, perché siamo naturalmente dei zozzoni, insomma. Io devo dire la verità che mi dispiace anche, perché questo brano è proprio bello, però poi noi, sapete, siamo un po'... non siamo una trasmissione di musica, noi mettiamo la musica per spezzare un pochino, per prendere fiato, ma soprattutto per darmi, poi, come posso dire, l'opportunità di effettuare la transizione anche da un punto di vista tecnico, perché noi sì, siamo fighi, siamo belli, però i mezzi che abbiamo sono quelli che sono, e quindi ricaricare nuovi assets, fare cose, insomma, e questo è il momento in cui succedono queste cose, ecco, per chi è magari curioso del background, insomma, di quello che succede, quello che si muove dietro una web radio piccola ma geek come la nostra, dove, insomma, tra l'altro Alex faceva una riflessione l'altro giorno, ascoltando diverse web radio così ultimamente, anche per curiosità, per prendere spunto, roba del genere, anche web radio professionali o semiprofessionali, diciamo, quelle che sono in quell'ambito, diciamo, di mezzo tra essere una cosa seria e ancora non essere proprio insomma un prodotto altissimo, noi per essere del livello che siamo noi facciamo una marea di live, cioè noi facciamo più radio noi che tante radio che dovrebbero fare radio, insomma. Cosa ne pensi di questo? Allora, prima di tutto volevo dire, adesso apro una parentesi, a proposito di transizione, ho visto l'altro ieri sera insieme a Davide Gatti Matrix 4. E vuoi sapere la mia opinione sulla cosa? Sì, come no, mi interessa molto. Ho provato vergogna nei confronti del regista, cioè per lo lui. So, lo so, per ma veramente vergogna, veramente una cosa, non ho mai visto una cosa così, veramente mi è dispiaciuto, cioè di solito uno va del cinema, questa cosa veramente è una cosa che non ho capito come mai, come sia possibile che qualcuno abbia dato dei soldi per produrre sta roba, vabbè comunque. Mi sono vergognato già dal trailer, devo dire la verità, anche se qualcuno dice che il metamessaggio del film è che loro l'hanno dovuto fare per non perdere i diritti. Probabilmente vero, sì, però. Però sti cazzi. Ma, dice. Ma ci mettevamo io e te, diventavamo una storia migliore, probabilmente. Tipo il priore. Sì, esatto. Priore Resurrection. Che hai ragione, sì, sono in ritardo. Tranquillo. No, allora, sul fatto che facciamo Sacred Line, sì, è che. Ormai. Quando penso a Runtime Radio non penso più a una radio, penso a una comunità, magari neanche troppo larga, però una comunità di persone che interagisce, che insomma la trasmissione è una sorta di legame elegante tra chi la produce e chi la fruisce, e poi il fatto che queste cose si intersecano tra di loro fa sì che tutto diventa una sorta di un unico grande calderone. Ecco, il vero meta è questo, secondo me, mica Facebook. Infatti, diciamo che a noi ci siamo sorpresi, perché presi un po' dalla bellezza magari di fare la radio durante il periodo in cui facemmo quella famosa promessa, poi subentrando a nuove persone, tipo ovviamente Leo, Walter e via dicendo, insomma ci siamo poi presi veramente questo impegno che lo troviamo divertente, cioè dice ma come fai le live alle 7 di mattina, cioè è ridicolo, no? Nel senso, ma chi ve lo fa fare, no? Ma tanto mi sveglierei comunque, cioè nel senso, sarei comunque già sveglio da un pezzo, quindi alla fine è il momento più buono secondo me per fare una live, è proprio la mattina quando sei ancora lucido. Comunque, volevo, prima di entrare nel tema importante, rispondere a, anzi leggere un messaggio che ha scritto Elettra Hir, tra l'altro taggando il tuo videopalla. Lei ci ascolta dalla Svizzera, quindi insomma alla fine è anche un ascolto internazionale. Buongiorno a tutti, concordo tantissimo su Djokovic, ma tra l'altro io non ho mai capito come Djokovic. Che crede di essere il signore incontrastato. Io parteggio per Federer, vabbè, questo poi dopo, ma anche per Nadal, vabbè, ma al di là delle simpatie tennistiche che poi possono essere insomma interessanti fino a un certo punto, chiaramente quello che sta succedendo a questo tennista è comunque il sintomo del fatto che in un mondo in cui alcune persone che sono al di fuori, non sono né al lato, né sopra, né sotto, ma sono proprio al di fuori dell'umanità normale, c'è un momento in cui qualcuno gli dice no, fermate qua, perché giustamente, cosa ne pensi di questa cosa dello essere stato stoppato in aeroporto in Australia? Poi gli australiani, come abbiamo detto, insomma, non è che sono tanto carucci su queste cose. Allora, premetto che saluto Elettra, cioè già il nome è bellissimo, almeno se non è il tuo nome l'hai scelto, bellissimo, mi piace tantissimo. Allora, hanno dimostrato di avere le palle, bene così, cioè nel senso, è giusto che nessuno sia sopra la legge, e soprattutto è giusto che nessuno sia sopra la salute delle persone. Loro si sono fatti un culo quadro in Australia e Nuova Zelanda, per mettere delle restrizioni, per far sì che le cose non venissero fermate, ma che insomma la loro nazione andasse avanti, nel senso, in maniera abbastanza dura, un po' come abbiamo fatto anche noi per certi versi. E non è che arriva il primo stronzo durante una quarta ondata con una variante che ti contagia soltanto guardandoti negli occhi, per cui insomma, tanto rispetto per gli australiani, che non si capisce un cazzo di quando parlano, però sono fighi. Sì, no, ma tra l'altro lì, come abbiamo detto anche in altre situazioni, c'è proprio un problema oggettivo, no? Essendo comunque un continente vasto, ma con 20 milioni di persone tutte sulla costa, hanno proprio dei limiti oggettivi riguardando proprio per quanto riguarda le risorse, quindi è difficile già entrare in Australia in condizioni normali. Io poi ho raccontato pure ieri sera nella trasmissione Le Orazioni della Sera di Walter il fatto che io, avendo perso la mia coincidenza per la Nuova Zelanda, sono stato scortato dalla polizia in albergo e la mattina dopo mi hanno preso e mi hanno sbattuto dentro l'aereo per tornare, per andare in Australia, in Nuova Zelanda. Quindi insomma alla fine c'è proprio questa politica, questa filosofia, e giustamente lì anche per una questione politica, perché con le polemiche poi diventa una questione politica, insomma l'hanno dovuto inchiappettare in quel modo. Vabbè, dai, comunque veniamo un attimo al nostro discorso. Io voi sapete che Alex ha la sua trasmissione, si chiama Techno Pills, che continua ad uscire ogni settimana, tra l'altro ogni lunedì alle 6 la trovate, insomma, il nuovo episodio sul feed di Runtime, quindi cercatelo su Spreaker, ma anche andando insomma su runtimeradio.it, e noi lo trasmettiamo Techno Pills nella sua storia, quindi praticamente tutto quello che è stato fatto anche in passato, dato che sono discorsi che possono anche spesso essere atemporali, tutti i giorni alle 9 e alle 15, sempre qui su runtimeradio.it. Nella sua trasmissione, per interagire con il pubblico della sua trasmissione, lui ha un gruppo Telegram che si chiama Techno Pills Riot, nel quale io intervengo raramente, giustamente, perché io se intervengo non c'ho un cazzo di cielo, nel senso io non è che ho competenze tecniche o via dicendo, però quando intervengo è per rompere i coglioni, perché comunque alla fine c'è qualcosa che mi ha fatto rodere, e vado lì e dico la mia, e giustamente loro mi rispondono. Alex mi risponde perché giustamente lui si sente anche un po', che ne so, il responsabile, un po' una sorta di capofamiglia lì dentro, allora giustamente, e gli altri reagiscono ovviamente a seconda della loro simpatia o antipatia per le cose che dico. Allora, nello specifico, Alex, che cosa è successo? Io ho visto un video dove un tizio presentava dicendo che lui se l'era comprato, perché poi sapete come funziona, no? Cioè, nel senso, io compro su Amazon e poi lo rimando indietro e faccio le recensioni e prendo migliaia di visualizzazioni. Comunque, aveva comprato sto monitor, i nuovi monitor ultra professionali di Apple. Io ricordo l'unico monitor professionale di Apple che vidi era molti anni fa il famoso il cinema, no? Il monitor cinema monitor, non so come si chiamava, insomma. E comunque era specifico, era un bellissimo monitor al plasma, una definizione incredibile, colori straordinari, e la stessa cosa probabilmente a questo monitor gigantesco, non è neanche 16 noni, mi pare che è in 16 decimi, se non sbaglio. Ok, mi sembrava più wide, però vabbè, può essere che mi ricordo male io, che essendo un monitor dedicato a una fascia ultra professionale costa quasi 7.000 euro. Va sicuro, perché non è questo il problema, ma sicuro ci sono monitor professionali che costano anche di più, cioè nel senso in sale di montaggio cinematografiche ci possono essere monitor che costano 10-15 mila euro, quindi alla fine sostanzialmente questo prodotto è un prodotto di straordinaria qualità, di altissima tecnologia, che ha il costo che probabilmente merita. Quella cosa che mi ha fatto profondamente indignare e sulla quale poi discuteremo, a parte il vetro in microfibra, cioè il vetro, il panno in microfibra che è all'interno della scatola, che costa 25 euro, quando un panno in microfibra, se lo paghi 3 euro, insomma, è già tanto, e quindi ovviamente c'è il marchio Apple e via dicendo, ma il fatto che, e qui viene la scenetta che abbiamo fatto all'inizio, che lo stand per reggere il monitor è venduto separatamente e costa 1.500-1.600, adesso non ricordo bene. Aspetta, fammi vedere. Non è neanche importante. Sì, però sì, vai. Allora, lo stand costa 1099 euro, IVA inclusa. Ok, 1099 euro. Il problema qual è? Cioè, nel senso, è che tu vendi un prodotto, mi giustifichi il costo del prodotto, ma me lo vendi nell'insieme. Anche perché il vero problema non è il fatto che lo stand, dici, vabbè, lo stand marchiato Apple, super figo, con i caratteri in oro, c'è la tua foto in silligrafia, e come diceva Alex, la placenta di vergine alimentata a papaya, ma quello stand è indispensabile, cioè non è un optional, è indispensabile, perché sennò il monitor tu non lo puoi usare. Perché non è che lo appoggi al muro, lo appoggi al muro e vediamo che succede. Lì c'è un gancio magnetico che è compatibile solo con quello stand, e quindi ovviamente è un po' una bastardata, diciamo così, no? Perché allora tu vendimi il monitor 8.000 euro compreso lo stand, ma metti ipotesi che io non sono informato di questa cosa, compro il monitor, mi sono svenato io e tutte le generazioni dopo di me, e che cosa ottengo? Ottengo un pannello bellissimo che però devo tenere appoggiato sul, cioè così, in orizzontale, perché non c'ho dove appoggiarlo. Insomma, questa cosa, devo dire, a me la cosa mi ha fatto veramente incazzare, proprio me, non perché mi riguardi, perché non mi riguarda. Alex, allora, un paio di informazioni. E io devo dire che non sono molto, cioè non sono molto distante da te come opinione. La soluzione più economica è quella di comprare l'adattatore VESA, che costa 219 euro, IVA inclusa. E a questo punto te lo attacchi col braccio, con un braccio che già c'hai, che però secondo me alla fine viene a spendere il mezzo palo, il 500 euro tra tutto. La cosa che ti dicevo io è che sì, è strana, bisogna ridire che questo pro stand, cioè lo stand, non è soltanto un appoggio dove mettere il monitor, è un coso che è molto bilanciato, che consente di spostarlo in alto e in basso senza sforzo e rimane lì attaccato, cioè nel senso è molto, e in più consente di ruotare il monitor di 90 gradi per utilizzarlo in verticale, che se fai coding è una delle cose molto comode per certi versi. Io non lo farei mai perché è talmente grande che lo utilizzerei così com'è, utilizzando mille finestre invece di avere grosse necessità, però insomma, diciamo che volendo uno può anche farlo così. Il mio punto di vista su questo oggetto qui è che è un oggetto che non riguarda nessuno di noi, cioè io per primo, che faccio video di professione, non ho bisogno di questa roba, perché sono un Roberto Marini intanto ci saluta dicendo buongiorno un monitor grazie, dicendo io faccio video di professione e devo essere sincero, ho sempre utilizzato dei monitor molto scarsi, anche quando pubblicavo cose in televisione, perché per due motivi. Motivo numero uno, non avevo soldi. Motivo numero due, guardavo le informazioni di Chroma e di Luma a livello strumentale, cioè con gli istogrammi, le analisi. E motivo numero tre, nel senso, la maggior parte della gente, cioè il 99,999% delle persone, ha a casa un televisore che non è neanche tarato, per cui sti grandissimi cazzi. Sì, diciamo che non è quello però il target, no? Cioè, nel senso, io penso che un montatore cinematografico che deve... Non è neanche il montatore, secondo me questa è una cosa per i colorist. Ma secondo per me fa proprio correzione del colore. Secondo me anche il compositing, cioè comunque avevo un monitor ultra dettagliato, sì, di grandissime dimensioni. Esatto, okay. Sì, allora se tu pensi a un oggetto che costa 7.000 euro, per dirti, 6-7.000 euro, è ovvio che lo utilizzi in uno studio che fa dei prodotti di livello elevatissimo, in cui un'ora di studio costa sui 100 euro, certo, per dirti, certo. Perché sennò non si riesce ad ammortizzare, e il monitor diventa uno strumento per questo tipo di cose. Allora sì, ha senso, sennò... No, ma è chiaro che è dedicato a quel tipo di mercato, ma io non contesto il monitor, cioè, come ho detto già più di una volta, io il monitor lo sostengo, cioè nel senso, secondo me se è un monitor dedicato a un certo tipo di funzionalità, è importante che sia quello che è, no? Intanto Liguria zona rossa, vedo che hai scritto tu, quindi mi dispiace per gli amici liguri, insomma. No, era una battuta tra me e Lobby Frontale, non c'è pro cazzo la Liguria, okay, allora, niente, le liguriani state tranquilli, siete a posto. Il problema secondo me è un po' l'insieme di questa cosa, che come dici tu, bene o male può essere anche ovviata. Io però ho la sensazione, qui vorrei entrare un po' nel discorso, che Apple è un po' come Djokovic. Cioè, nel senso, c'è un momento in cui queste realtà, che basano tutto sulla comunicazione, del fatto che tu hai bisogno dei loro prodotti, non in questo caso, perché chiaramente questo ha un marketing diverso, è dedicato... Cioè, io, se non fosse quel video di YouTube, non avrei neanche saputo che c'era quel... Tra l'altro, video di YouTube mi è capitato così, cioè, non è che ce lo sono andato a cercare. Ma io, tu sa che tu vuoi fare polemica, per cui ti, esatto, manda queste cose. Probabilmente. Allora, la mia sensazione è che Samsung, Apple, secondo me in particolare, cioè proprio in modo particolare, rappresentino una realtà che è al di fuori, e che non, da una parte non si rendano conto che fuori c'è la locura, c'è la morte, esatto. E anche se loro se ne rendono conto, la loro ideologia riferita a se stessa comunque li fa bypassare questa cosa. Ah sì, fuori c'è la morte, sti cazzi, noi siamo questa realtà qua e voi avete bisogno di noi, no? È un po', cioè è una cosa che sono, è da quando è scoppiata la pandemia che io mi sono reso conto che loro non hanno fatto mai nessun passo verso il mondo, e è sempre il mondo che deve andare verso di loro. Tu dici, ma puoi benissimo non farlo, sono d'accordo, però è la tendenza ad avere questo approccio che alla fine un po' diventa inquietante, perché alla fine diventa più generalizzato di quanto non possa sembrare. Questa è un po' la mia sensazione da un punto di vista generale, dal quale voglio appunto la tua idea. E il fatto dello stand, secondo me, è una sorta di scorrettezza, perché chiaramente quel monitor renderà al meglio nella sua funzionalità avendo quel tipo di stand che lo tiene super al sicuro, che lo può ruotare come vuole lui, che si muove con una certa flessibilità, che fa tutto quello che cazzo deve fare senza avere il problema del fatto, oddio, me se stacca casca e se rompe. Questo è un po' allora il... ti dico quello cosa ne penso. Prima di tutto hanno ragione loro, perché proprio l'altro ieri Apple ha raggiunto i 3 triliardi di dollari di capitalizzazione. Cioè comunque loro facendo questa politica, il mercato li sta premiando. Questo è un punto di vista, e l'amministratore delegato è pagato solo per quello, per far guadagnare questo tipo di cosa, non per far guadagnare ai clienti. Punto numero due, non è vero che non vai incontro al mondo, perché tu puoi comprarti un Mac mini a 800 euro se non sbaglio, forse 750, nuovo, anche da qualche parte lo trovi in offerta, e secondo me per quello che facciamo io e te è una macchina della iper madonna. Io ce l'ho in ufficio, è veramente l'unico limite che ha, che può attaccarci solo un monitor, però per il resto è una iena, altrimenti ti compri un Air che puoi usare il suo display interno e il display esterno. Punto numero 3, Apple, come tutte le aziende della Silicon Valley, non solo è americana, per cui vede l'America come unico mercato, come mercato di riferimento, ma è californiana, California del Nord, nell'area di San Francisco, che è l'area più ricca del mondo. Lì un monitor da $5,000 è come se per loro costasse 1,000. Hai capito? Cioè, non hanno questa percezione del prezzo. Cioè, per loro $6,000 sono come 1,000 qualcosa. Perché è così, nel senso, gli stipendi sono altissimi, le case costano, cioè è tutto moltiplicato per 6, per cui non hanno questa percezione del resto del mondo, e di conseguenza così, cioè nel senso, è difficile pensare questa cosa. Questo è abbastanza chiaro, come tipo il rapporto al fatto l'affitto, io lì pago $5,000 d'affitto, $5,000 di affitto, perché comunque de media prendo $10,000 di stipendio, cioè nel senso, esatto, anche di più. Allora, il punto numero 3, non mi ricordo che punto ero arrivato. In tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, un sacco di gente si lamenta del fatto che manca una soluzione monitor normale. Cioè Apple, se tu vai sul sito, vuoi comprare un monitor, ti rimanda ad acquistare un LG 4K, se non sbaglio, che va bene per certi versi, però nel senso non è considerato il migliore 4K sul mercato. Dice, perché non lo fate voi, visto che avete tutte queste tecnologie? E adesso apro una parentesi, io sono stato con Roberto Marin qualche giorno fa a Torino, ci siamo incontrati, per farci gli auguri di Natale e volerci bene, siamo andati, facciamo un salto all'Apple Store di Torino, così per vedere, e abbiamo visto il nuovo portatile, il MacBook Pro, quello con M1 Max. Io ti giuro, non ho mai visto un monitor così bello in vita mia, oltre ad essere una iena, cioè una potenza che ti giuro, è veramente, non è avere un computer più veloce, è avere un'altra categoria, come se si mettono a giocare a calcio, che ne so, il Bayern Monaco e la Salernitana, cioè questa roba qui, la differenza come potenza, come responsività, cioè, se tu clicchi su un'icona non fai in tempo a rimbalzare, si apre Final Cut con un progetto enorme che andava avanti senza problemi e il computer rimaneva freddo, nel senso l'abbiamo toccato, era più freddo dell'ambiente. Per cui, rispetto, cioè, dal punto di vista delle risorse, effettivamente l'Apple degli ultimi 2 anni ha fatto tanta roba. quello che io dico sempre è parlando di questo monitor in particolare, è una cosa che non serve a me, non serve a te, e di conseguenza trovo anche questa cosa, a volte quando penso al Pro Stand, cioè lo stand da 1100 euro, mi sembra quasi una perculata. Come dire, oh, mettiamolo fuori, tanto che cazzo gli frega. Ma è, cioè, no, senso... infatti è proprio quello il punto. Se arrivati a un punto, secondo te, qui voglio proprio la tua opinione importante, che Apple è in grado e in condizione di poter vendere un qualsiasi tipo di prodotto anche a condizioni ingiustificabili, perché tanto la gente comunque non ha più un senso critico ma un rapporto quasi fideistico nei confronti di questa cosa, perché guarda che forse questo è importante, perché non è Apple secondo me il problema, cioè chiaramente che Apple, dicevo io, anzi, il problema è sempre in chi compra, ma in chi, esatto, vende. Cioè io vendo l'auricolare a 400 euro, cazzo vuoi, cioè, vuoi l'auricolare Apple costa 400 euro. Se tu lo compri, cioè secondo me siamo arrivati a un punto in cui, a parte, voglio dire, cioè nel senso magari svaccare in una cosa morale, tipo che ne so, su quel MacBook c'è l'impronta digitale del bambino thailandese che l'ha costruito, alimentata a papaya, esatto, a parte quello, secondo me tutto il resto la gente tende a giustificarlo, perché Apple, io sai, ma non è una cosa riferita verso di voi, è perché esiste un mondo, esiste un mondo al di fuori che io conosco, di persone che fanno scelte, e quindi stiamo parlando di persone che non sono il Riot, cioè quindi persone che hanno una competenza tecnologica, ma io parlo delle persone in generale che ti dicono che si comprano quella cosa perché è quella cosa lì e quindi è migliore, no? Senza avere nessuna cognizione, senza avere... Ma io, sai, gente, conosco anche uno che recentemente si è comprato un Mac perché il Mac è meglio. Poi non si è neanche reso conto che ha comprato l'Intel invece di aver comprato magari l'M1. Pure, cioè, capito? Perché giustamente non ha cognizione. Quindi, ecco, la mia preoccupazione è il fatto che comunque questo tipo di marketing così aggressivo porta a produttori come Apple, come Samsung, quindi non è che c'è ovviamente, come Sony anche su certe cose, a produrre cose e vendere in maniera anche ingiustificabile, perché tanto comunque il pubblico non ha più senso critico da questo punto di vista. Ecco, questo secondo me è il punto. Non è il monitor, che il monitor, ti ho detto, per me c'è, ci sta, è giusto che sia così. Ma guarda, secondo me questa cosa qua dell'hype, del valore non giustificato, lo puoi tirare dentro in qualsiasi cosa. Per dirti, ti faccio un esempio, l'altra sera sono andato a vedere un film spendendo 10,50 euro, e sempre lo stesso film, pensando che sarebbe stato non granché, però non immaginavo se fosse, sarebbe stata una merda, però mi capita spesso di andare a vedere dei film nel senso così, perché è il film da andare a vedere, nel senso, ok, lì sono 10,50 euro, più la benzina, più la cena, eccetera, eccetera, però al vivo come una sorta di esperienza per stare con gli amici. Però vale per tantissimi mercati. Fino all'altro ieri era quello dell'automobile, adesso in automobile non ci si va più perché per vari motivi, pure si torna, perché adesso è praticamente impossibile comprare un'automobile nuova, con tutti i ritardi nelle produzioni che ci sono state. Ah beh, sì, certo. Però 10 anni fa era l'automobile, adesso è il telefono cellulare. Forse anche fino a 5 anni fa, magari, cioè, perché poi alla fine il Covid un po' che ha cambiato il paradigma in generale, soprattutto nell'ambito produttivo, perché noi vediamo anche tutti quelli che producono macchine fotografiche. Sony prima cagava 16 modelli all'anno di fasce diverse, adesso comunque ha, come posso dire, ristretto, no? Cioè il suo parco produttivo, proprio perché oramai è inutile, soprattutto in funzione del fatto che probabilmente non c'hanno neanche pezzi, i chip, insomma tutti i componenti, tutta la componentistica è probabilmente difficile da rimediare, no? Cioè, nel senso, ma secondo me anche perché nelle macchine fotografiche la gente ha smesso di comprarle perché i telefoni fanno foto più belle, cioè punto, senza, vabbè, io su questo problemi. Sai, non sono d'accordo, continuerò a non essere d'accordo, e secondo me io la capisco, però ecco, sempre siamo andati all'App Store, mi ha fatto una ripresa con l'iPhone 13 Pro, quello che mette a fuoco e fa lo sfocato, sì. Io ero molto scettico, l'abbiamo fatta lì senza condizioni di luce decenti, senza proprio, cioè, io ho fatto un primo piano a Roberto sullo sfondo, ho detto minchia, ma che figata è venuta fuori, e avevo un massimo controllo sulla messa a fuoco, cioè sapendo da dove parto e sapendo dove siamo arrivati, cosa potrebbe essere l'anno prossimo, mi sono detto sì, Ok, adesso ancora, sono... ancora le reflex, su, ma guarda, due o tre anni, ciaone. Vabbè, il problema è che comunque è sempre un artificio digitale, no? Nel senso, comunque magari sì, il professionista che preferisce... Ma è tutto un artificio digitale. Beh sì, no, dai. Insomma, vuol dire, poi ma noi non facciamo fotografia, noi facciamo imaging, noi non facciamo ripresa video, noi facciamo compositing. Cioè, è questa roba qui, non dobbiamo, dobbiamo renderci conto che... quello che noi giriamo, quello che noi scattiamo, solo una piccola parte di quello che poi andiamo a costruire alla fin fine. Per questo dico, cioè, nel senso, se è artificiale ma funziona, va bene, che cazzo me ne frega. Cioè, cazzo mene, giustamente. Cazzo mene, ma veramente tutta la vita. Senti, facciamo così, io metto un piccolo brano, molto breve, e così ci leggiamo un attimo la chat e vediamo, insomma, di riassumere quello che... perché vedo che c'è una discussione, insomma, interessante, ok? Yep. Vabbè, rientriamo perché, ok, tutta la roba di Epidemic Sound, bellissima, meravigliosa, però devo ancora fare la cernita di quello che è musica di sottofondo e quelli che sono brani cantati, e purtroppo ancora non mi sono organizzato, insomma, ho fatto questo abbonamento di 3 mesi alla licenza di utilizzo che costa tipo, insomma, un sacco di soldi. Però sto sfruttando i 3 mesi gratuiti, poi chiaramente chiudiamo tutto, insomma, quindi vediamo, insomma, di sfruttare e scaricare quanto più possibile, perché poi dopo l'utilizzo diventa illimitato nel momento in cui l'hai acquisito legalmente, e quindi, insomma, vabbè, per ora poi vedremo quello che succederà in futuro, perché Runtime magari un giorno farà una sorta di raccolta fondi e compreremo la SIA, chi lo sa, insomma, tutta è la SIA, non i diritti di licenza. Allora, che dicono in chat, Alex? E vedo veramente tanto movimento, ci sei anche tu, poi, tra l'altro. Assolutamente sì. Adesso siamo qua che stiamo chiacchierando con Walter, Roberto e Francesco su questa cosa. Ovviamente io e Roberto siamo dei fanboy e veramente abbiamo avuto gli occhi a forma di cuoricini nei confronti di questi due prodotti. Devo dire che c'è del bias. Io sinceramente, però, come ho detto in una puntata che è stata una delle puntate più ascoltate degli ultimi anni del mio podcast, acquistare oggi un MacBook Pro Max di quelli da 4.000 euro, costa al professionista, con un finanziamento di 2 anni, 176 euro al mese, e poi dopo 2 anni riesci a rivenderlo tranquillamente a metà del prezzo, per cui è un po' come se ti costasse quegli 80 euro al mese, mettiamola così. Non è tantissimo. No, certo. Cioè, costa, pensa che l'abbonamento alla Creative Suite di Adobe costa 63 euro al mese. Sì. E devo dire che sono molto più felice quando uso quella macchina, sarei molto più felice se usassi quella macchina piuttosto che sentire il peso di pagare quella cifra mensile ad Adobe, che secondo me così tanto non vale, soprattutto perché da quando sono passati al modello di business ad abbonamento le innovazioni sono state proprio, si vede che le centille erano proprio, sì, quest'anno, ma no, mettiamogli solo quello, ma non diamogli tutta la tutta la carota, certo. La carota, sì, tra l'altro volevo segnare, questa è una puntata assolutamente inusuale di Buongiorno un Cazzo, ragazzi, parliamo di tecnologia, sapete, non lo facciamo mai e probabilmente continueremo a non farlo, però dato che ci siamo, volevo segnalare l'abbonamento a Creative Cloud Express, perché costa 21 euro al mese e devo dire che è interessante, perché ti dà una suite molto facilitata per chi non è un professionista, ma ha bisogno comunque di materiale anche pubblicitario, di organizzare proprio il proprio layout anche dal punto di vista estetico, su tutti i fronti, dal punto di vista della stampa e del mondo social, vabbè, utilizzando ovviamente la tecnologia di Adobe Spark, praticamente diciamo è tutto molto friendly e assolutamente a portata di mano, e i risultati sono comunque di grande qualità. Poi se sei un po' più scafato della media, diciamo che riesci a fare cose incredibili. Ecco, diciamo che potrebbe essere una soluzione professionale per chi si vuole fare un marketing personale all'interno della propria piccola azienda. Magari 21 euro al mese sono una cifra che è spendibile, tutto fatto ovviamente tramite o mobile o tramite web app, e quindi poi alla fine comunque, cioè, non devi neanche avere un computer performante o comunque un spazio di installazione o cose del genere, insomma. Quindi alla fine è interessante come tipo di discorso. Per quanto riguarda invece il discorso del fanboismo, beh, tu a volte hai un approccio critico, è più Roberto che sicuramente ci sta ascoltando, che ha proprio questa sua devozione incredibile. Ma guarda che in realtà, anche se poi a volte esatto, sì, vai. Io conosco Roberto bene, e Roberto invece in realtà è una persona che fa veramente tantissimo i conti con le cose, e prima di aprire il portafogli, cioè nel senso, ci pensa anche molto più della gente normale. Per cui sì, noi siamo entusiasti, esatto, però siamo anche, se tu ascolti i nostri chinotti, siamo i primi ad essere critici nei confronti di Apple quando fa delle cose che sono fuffa e aria fritta. Io devo essere sincero, dal punto di vista del software, gli ultimi due anni Apple mi hanno deluso tantissimo. Dal punto di vista dell'hardware invece devo dire porca puttana, cioè tanta roba. Alcune cose non hanno una controparte, nel senso, se tu dici il computer identico fatto da Dell, per dirti, che ha le stesse caratteristiche eccetera eccetera eccetera, e costa la metà, va bene, ci può stare, posso capirlo. Però già quando parli di un sistema operativo che è quella roba lì, non ce n'è altri, vabbè, dici, secondo me non ci sono proprio raffronti da questo punto di vista, non ha neanche senso farlo proprio raffronto. Perché sono. No, poi la gente li fa spesso. Ogni volta che dico. Io l'anno scorso mi sono comprato un iPhone 12 Pro ricondizionato. Lo ammetto, mi sono fatto un regalo. Io ho usato dei soldi che mi ha dato mia mamma, dei soldi che mi ha dato mia moglie. Cioè, nel senso, mi hanno fatto un regalo di compleanno, ci ho aggiunto la differenza e mi sono preso questa cosa. E quest'estate ho fatto tutte le fotografie delle vacanze con questo. E devo dire che non ho sentito la mancanza neanche per un femtosecondo della macchina fotografica. Però prima avevo un iPhone 7 che era vecchio di 5 anni. E ogni tanto quando dico questa cosa qui in ufficio dico: ah, potevi comprarti lo Xiaomi di Antani che costa 12 euro e ti danno in cambio anche la bici col cambio Shimano, la batteria di pentole col cambio Shimano pure quello, eccetera eccetera eccetera. E mi sono detto: sì, probabilmente è vero, probabilmente fa anche delle foto più belle, però ripeto, io per come sono abituato, questa cosa qua mi gira al meglio così. È difficile sempre fare i conti con i soldi delle altre persone, è anche ancora più difficile fare i conti con le emozioni delle altre persone. Sì, non parlavo del fatto che lui compra Apple la rotta di collo, ma è chiaro che sicuramente fa i conti con quelle che sono le sue esigenze e quelle che sono le sue possibilità. Diciamo che in generale, quando io ascolto i vostri chinotti, sono più, diciamo, la persona che se dovessi essere un tifoso, diciamo, sarei un tifoso di Davide, perché comunque Davide parte con un approccio, diciamo, negativo in partenza, perché si rende conto magari a una certa età e a certe visioni della vita che molta roba è merda inutile. Poi dopo, in mezzo a tutta questa merda inutile che circonda ovviamente il circondario, appunto, poi c'è il prodotto di qualità, che è quello veramente utile. Il problema è che questo prodotto di qualità poi lo circondano tutta una serie di stronzate che sono quelle che gli fanno fare i soldi, secondo me, poi alla fine. Quindi tutte quelle cose di cui vedi che c'è, oh che bello, ma non ti devo ancora spiegare che cos'è, cioè, è questo che a me mi infastidisce. È come quando mia cugina da ragazzino strillava dicendo Simon Le Bon, è la stessa cosa. Per me il principio è lo stesso, a livello proprio morale è la stessa cosa. Lo so che sono offensivo nei confronti delle persone dicendo una cosa del genere, me ne rendo conto, ma vi voglio bene lo stesso, anche se penso questa cosa di voi, insomma, ma non di voi insomma maiestatis. Tra l'altro, visto che ci sono quasi 800 ascoltatori mensili di questa web radio, vorrei ricordare a tutti questi 800 ascoltatori mensili Della web radio, che il 6 febbraio è il mio compleanno, quindi insomma pensate tutte queste cose, l'iPhone 13, 14 oh, 50 anni ragazzi, mezzafella, porco zio, capito, 50 anni a volte mi fa veramente molto strano questa cosa, insomma. Comunque vedo che la discussione tra Marin e Walter, che poi Walter si incaponisce un pochino poi dopo magari, insomma, addirittura siamo entrati in questioni etiche. Comunque Alex, che ti ha portato la Befana? In questo momento mia moglie che ha cucinato dei pancake a colazione, che per me è stata una figata. Pensa, pure noi abbiamo fatto i pancake. No. Pancacca. Sì, pancake. I pancacca. Adesso poi finita questa trasmissione ci facciamo un caffè e poi mia moglie cucinerà un dolce, perché oggi andiamo dei suoceri e gli porta un dolce. Bello, siamo bello, molto contenti. Bello. Sì. Mi raccomando, attenzione sempre, ragazzi. Sempre vigili, sempre allerta, insomma. Assolutamente sì. No, ma devo dire che sono... cioè, I due suoceri e il cognato hanno già fatto la terza. Miki ha fatto la terza, io ce l'ho fra 8 giorni, no, fra 7 giorni esatti. Anzi, proprio fra 7 giorni esatti, in questo istante starò facendo la terza, sperando di evitarla come la peste, perché poi il 20 è una trasferta in aereo e vorrei evitare di non andare, perché sarebbe un grosso casino per tutti. Però fino adesso sono riuscito, incrociando le dita e toccando ferro, a evitare tutto quanto. No, devo dire, in realtà bisogna essere se mantiene un minimo di cose. Il fatto che un sacco di gente si è lasciata andare, come dire, ok dai, è finita, siamo vaccinati, il peggio è passato, vaffanculo, sì. Ricchi premi e cotillon. C'è da dire che la scuola ancora non è ricominciata. Bene, io ricordo che la prossima settimana, sempre di giovedì, a Buongiorno un Cazzo, farò un discorso molto legato a questa discussione di oggi, ma ovviamente molto sui generi, cioè non prende neanche spunto da questa discussione di oggi, è proprio una questione legata alla comunicazione, e ci sarà anche lì un intervento di Alex che è già pronto da un po' di tempo, e insomma, quindi alla fine torneremo anche su, però ritorniamo più sui canoni ovviamente della nostra trasmissione. Detto questo, beh, io intanto ringrazio Alex che mi ha fatto veramente piacere, insomma, aver fatto questa chiacchierata con te, insomma, che ogni tanto ci vuole, insomma, perché noi poi, se vuoi, vengo anch'io ospite della tua trasmissione. Tanto, ma più che volentieri. Tanto io e te, quando facciamo queste conversazioni, è sempre uguale, cioè, nel senso, è come se fosse la stessa trasmissione, cioè, il tono è questo, insomma, fondamentalmente, ed è anche carino che sia così. Molti mi scrivono, Alex, che vogliono, non tanto vogliono sapere del priore, però vabbè, questo è, lo so, che avete ragione. No, lo so che ti è come mettere un coltello al collo, praticamente. Adesso lo dico, fino al 23 dicembre alle 19 ho lavorato come un pazzo, cioè, nel senso, sono arrivate un sacco di emergenze in ufficio. Abbiamo avuto un'emergenza sanitaria perché un collega è risultato positivo. Noi abbiamo fatto tutti il tampone, tutti negativi, grazie al cielo. Un altro collega era rimasto a casa con l'influenza 38 e mezzo, negativo pure lui, però fin fine eravamo rimasti in 3 a fare il lavoro di 6 e a risolvere anche problemi che non erano neanche nella mia area, che io non sapevo neanche da che parte muovermi. E durante queste vacanze, questi giorni, alcuni giorni li ho dedicati proprio a stare con mia moglie a fare un cazzo, i giorni di lavoro li sto dedicando per fare dei tutorial che sto girando in inglese, parlando ad alta voce, che, per cui non è che potevo farli altrove, ed è perché ho appena lanciato una nuova app molto complicata, molto complessa, e sto facendo questi tutorial per spiegare come fanno le cose, per cui sto sfruttando questi ultimi giorni di ferie per fare questa cosa da lunedì, che sono tranquillo. Aspettatevi prima di tutto il teaser trailer e dopo poi il trailer vero proprio, esatto. Pre-trailer, perché sei il pre-trailer del trailer, esatto, sì. Vabbè, volevo dire due cose, una era questa qua del priore, poi una era l'altra, ma mentre che parlavamo me la so scordata, perché non me la so segnata. Io volevo aggiungere una cosa. Vai. Che nel senso, se non conoscete la mia trasmissione, potete rimanere tranquillissimamente nell'ignoranza, va benissimo, che però io sono molto contento perché fra 7 episodi faccio il numero 400 episodi. Minchia. E devo dire che questa trasmissione è nata grazie a te, perché ti ho detto fai una trasmissione in cui rispondi alle mie domande, e ho iniziato a farla, e poi grazie al cielo, sfruttando l'onda verde di registrare intanto che vado in automobile, riesco a portarmi avanti ad essere bello bello pieno, e per la puntata 400 farò una diretta in streaming, anche video, in cui risponderò a tutte le domande, anche quelle più, più cattive. Cioè potete chiedermi, farmi vedere come si fa una cosa in After Effects, oppure raccontami della prima volta che ti hanno violato. Ok, allora... anche della prima volta. No, esatto, della prima volta, bravo, bello, giusto. Ah, saluto anche il Tomaiuolo, la persona che io temo di più in tutta runtime. Esatto, sì. Io ho terrore di quello che potrebbe quello, fare. Quello colui che definisco la persona ideologicamente compromessa, quindi però al quale vogliamo tantissimo bene. Diciamo, allora, intanto ringraziamo Alex, quindi Techno Pills è la sua trasmissione, ma c'è anche il vino Lo Porto Io, che è un altro programma, insomma, che ha riscosso il suo importante successo, che ci fa veramente piacere, perché è al di là, insomma, del pubblico al quale è rivolto la trasmissione, il fatto che poi questi programmi escano anche un po' fuori da questa nostra nicchia di podcasting ci fa anche piacere, insomma, Alex. Sì, sì, io devo dire la verità, sul vino Lo Porto Io ero abbastanza convinto che avrebbe avuto questo, non dico successo, perché è successo, è una cosa un po', vabbè, un noi po' particolare, successo, però successo. Devo dire la verità che sta genera discussione. E in più siamo stati anche tra i primi, perché adesso podcast che parlano di vino negli ultimi 3 anni se ne sono venuti fuori parecchi, alcuni sono anche morti. Ci sono alcuni podcast proprio realizzati da case vinicole, di aziende che producono vino, che proprio fanno degli episodi sulla loro storia. Per cui non dico che siamo stati Era lì che ci dovevamo inserire, però, ci dovevamo inserire facendo un servizio commerciale. Cioè, volete fare il podcast sulla vostra. Però sappi che questa nuova stagione porterà delle grandi novità proposito. Bene, bene, bene, va bene. Allora, del priore l'abbiamo detto. Volevo dire invece un'altra cosa, sempre relativa ad Alex Raccuglia, ma oramai me la sono completamente dimenticata, e quindi pazienza. E ti ringrazio, Alex, è stata una bella chiacchierata, e ci vediamo prossimamente, sempre solo su questi schermi, insomma, tu lo sai. E sti cazzi. Esatto. Ok, io ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, e approfitto dell'occasione per augurarvi una buona epifania. Esatto. E un buon rientro al lavoro cattivo lunedì. Il lavoro cattivo, bello questo qua del lavoro cattivo. Va bene, ragazzi, salutiamo Alex, brano e poi i saluti finali. Ciao Alex, grazie di tutto. Ciao, ciao, buona giornata. Bene ragazzi, questa sera vi ricordo quando eravamo futuro, scusate, sono un attimo distratto, parleremo di pubblicità, le famose pubblicità del futuro, quelle che possiamo considerare pubblicità del futuro, ma in realtà sono le pubblicità del nostro passato, ma per noi erano le pubblicità del presente, che anche quelle che sarebbero state poi nell'immediato futuro, perché c'è stata una grande transizione nel nostro paese, una transizione di abitudini, di comportamenti, una transizione culturale che è passata anche tramite la televisione. Questo sicuramente è un momento che racconteremo, e lo faremo chiaramente con la puntata pensata e ideata da Roberto Tomaiuolo, insieme a lui ovviamente Carlo Sant'Agostino, me e Davide Gatti. Mentre prima, questa sera alle 20 alle 20 e 30 o giù di lì, insomma, andando fino all'ora che desidera. Ci sono le orazioni della sera di Walter Sbano con l'ultimo appuntamento della settimana e soprattutto l'ultimo appuntamento della versione Le Orazioni della Festa, e poi si torna ovviamente alla versione normale, tradizionale, che poi è quella che, insomma, che attendiamo tutti. Detto questo, quindi questa sera 20, alle ore 20 Le Orazioni della Sera, alle 21.30 Quando Eravamo Futuro, domani c'è Leo che chiude la settimana con il suo Il Mattino All'Ora in Podcast, e poi ovviamente sabato dovremmo tornare io e Michela con la nostra puntata, insomma, delle disordinati informati, insomma, del sabato. E poi forse domani sera, se ci riusciamo a organizzare, facciamo anche Runtime by Night. Ora vediamo, insomma, continuate a seguire ovviamente il nostro canale Telegram, telegram.me/dirette runtime, nelle quali ovviamente faremo, ovviamente comunicheremo tutto quello che è in programmazione nelle prossime ore. Domenica invece, come sempre, c'è dalle 9.30 alle 23.30 il meglio di Runtime tra pubblicazioni podcast e live, che sono ovviamente state trasmesse sia sui nostri feed dei podcast che sulla nostra radio www.runtimeradio.it, e ovviamente sempre più live, sempre più radio per stare insieme a voi. Passate ovviamente una buona Befana insieme a tutti quanti quelli che volete, ma soprattutto una cosa importante: cliccate sul pulsante anch'io del nostro sito e se volete, se avete la possibilità e ne avete la voglia, fate una donazione, una tantum tramite PayPal, oppure una donazione ricorrente tramite Patreon. Grazie a tutti, buona giornata a tutti, buona Befana e state bene.